Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Il resto della domenica ci attende, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Luca Giulio per l'abilissima regia che tende addirittura a diventare raffinatissima nel momento in cui cerca le corrispondenze fra testi e testi musicali, Dio mio, vabbè, speriamo in bene. Grazie a tutti, buona giornata, l'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Sì, sì, ancora per una settimana. Thank you.